Salt peanuts. Jazzom megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi è uno sguardo, diciamo, uno sguardo su alcune novità, alcune tendenze attualmente tra le più interessanti, diciamo, nella grande mela. Però direi che la cosa interessante è che questi linguaggi, che sono quasi sempre individuali, poi confluiscono in una sorta di memoria che riesce ad essere poi patrimonio di musicisti, anche se hanno percorsi che sono poi individualmente diversi. Uno dei personaggi più interessanti senz'altro è Mary Halvorson. Ascolteremo un ultimo lavoro uscito in una formazione di trio per un'etichetta interessante, un'etichetta molto attenta a quello che succede nell'ambito sia dell'avanguardia che di una certa avanguardia legata anche al rock, a quelle esperienze. E si tratta della Cuneiform. Il lavoro uscito è un trio, una formazione in trio, che è un incontro alla pari tra Mary Halvorson alla chitarra, Michael Formanek al contrabbasso e Thomas Fujiwara alla batteria. È un trio sicuramente di musicisti di primo ordine ed è un incontro interessante, soprattutto devo dire intanto sicuramente la capacità poliritmica di Thomas Fujiwara dà una ricchezza timbrica decisamente interessante, ma è il dialogo tra Mary Halvorson e Michael Formanek, perché sono due generazioni diverse e due percorsi diversi nella loro formazione, nelle loro esperienze, che trovano un punto di incontro interessante. Un disco direi ben riuscito, che sottolinea appunto la capacità di dialogo di questi musicisti. Il disco è intitolato Thumbscrew. Ascoltiamo alcune di queste composizioni che manifestano poi il mondo espressivo da un punto di vista armonico, soprattutto della Halvorson, questi piani armonici molto contrapposti tra di loro, nei quali poi si muovono con molta agilità questi musicisti. Thank you. le complessità armoniche di Mary Halvorson, soprattutto Sono So e poi i brani, le composizioni sono le sue, sono ormai diventate un patrimonio dell'avanguardia newyorkese e appunto si declinano poi a seconda delle personalità dei musicisti. Questo era, per ricordarlo, era un disco uscito recentemente per l'etichetta Cuneiform, intitolato Thumbscrew, e che vede la presenza, appunto, la collaborazione di tre musicisti, Mary Halvorson, Mike Formanek e Thomas Fujiwara. Un disco ben riuscito che descrive bene quelle che sono le intenzioni musicali di questa formazione, dove emergono sia le complessità diciamo, melodiche dell'Halvorson, sia anche la poliritmia vicina al mondo rock, a quella che è l'evoluzione della ritmica rock. Un altro aspetto che è emerso negli ultimi tempi è anche una vicinanza anche con linguaggi che risentono delle influenze di altre culture, come per esempio è l'esperienza di Vijay Iyer oppure di Rudresh Mantap. Recentemente l'etichetta PI Records, un'etichetta discografica che fa capo a Threadgill, soprattutto vede i pilastri, sono Threadgill e Steve Coleman, ha dato la possibilità a diversi giovani musicisti di esprimersi con progetti, diciamo, personali che traducono le loro intenzioni in risultati discografici. Un musicista nuovo, un giovane trombettista che da qualche tempo si è segnalato come una delle voci più interessanti, la tromba, Amir El-Safar. Amir El-Safar è nato a Boston, però da padre iracheno, e ha trasferito nella propria musica l'interesse per la cultura, soprattutto per la cultura classica della musica irachena. Il risultato è decisamente interessante, perché riesce a coniugare indubbiamente quello che è la tradizione jazz con appunto influenze anche che vengono dalla musica araba. E ascoltiamo da questo ultimo lavoro uscito per Amir El-Safar, che peraltro è un musicista che collabora con diversi altri musicisti di quest'ambito, ha lavorato insieme a Tishwai Sorey, il batterista sempre riferiti all'ambiente di Threadgill. Anche le sue collaborazioni sono anche con Rudresh Mantap o questo ambiente, diciamo. In questo ultimo lavoro è salutato con molto entusiasmo dalla critica, vale la pena conoscere, ascolteremo un paio di composizioni di Amir El-Safar, il disco è intitolato Alchemy, e ascolteremo il brano d'apertura e quello che conclude il lavoro uscito di recente. Thank you. Questo era Amir El Safar nell'ultimo lavoro uscito per l'etichetta P Alchemy. E i musicisti sono molti, di questi collaborano più o meno nello stesso ambiente, oltre alla tromba di El Safar, il sax tenore di Ole Mathiesen, ecco, il pianoforte, interessante questo pianista, è abbastanza in primo piano anche nel gruppo, giustamente. John Screet, l'abbiamo ascoltato anche in un'altra occasione come leader di una formazione, dove dimostra appunto questa capacità trasversale delle ispirazioni che interessano le nuove generazioni di musicisti. Poi François Moutain al contrabbasso, che invece ha un'esperienza piuttosto anziana ormai, collaboratore di Michel Portal e di molti altri dell'ambiente francese, che poi si trasferisce negli Stati Uniti e collabora con questi ambienti, con Mantappa, con altri. E poi alla batteria Dan Weiss. Anche Dan Weiss dimostra appunto una capacità di tessitura notevole ed è anche un compositore e leader di, a mio avviso, di notevole interesse, e lo dimostra con un ultimo lavoro uscito, l'ultimo numero, diciamo, di catalogo dell'etichetta della P Records, intitolato 14. È un disco, è un progetto, una sorta di suite in sette parti, dove appunto sono i musicisti che collaborano, sono più o meno dell'ambiente, dello stesso ambiente di collaborazione del disco precedente. E il risultato è notevole, le influenze indiane, della musica indiana, sono evidenti, ma poi esiste un terreno espressivo soggettivo, personale, che riesce a trovare delle intensità notevoli. Nomino alcuni dei musicisti, per esempio al pianoforte Matt Mitchell, un altro dei musicisti più interessanti delle ultime generazioni, collabora con Tim Berne e con altri, ma poi anche al trombone Jacob Garkrick, anche lui è piuttosto attivo sulla scena, o Oad Talmour al sax tenore, e poi anche una serie di voci e di altri musicisti, Thomas Morgan al basso, Thomas Morgan uno dei sidemen più richiesti negli ultimi tempi. Ascoltiamo alcune di queste parti, la parte iniziale, poi altri due momenti che sottolineano un pochino la tensione, la struttura di questa composizione. Thank you. Questa era Dan Ways, una formazione piuttosto allargata che è guidata da questo giovane batterista in un lavoro decisamente interessante, 14, uscito recentemente. E, è interessante anche proprio la capacità piuttosto spregiudicata di utilizzare materiali sonori più diversi, anche gli stili più diversi. È difficile identificare quali possono essere le influenze, a parte che qualche influenza di musica indiana c'è sicuramente, ma si sente sicuramente anche un'influenza di un certo tipo di rock degli anni 70-60. È comunque un lavoro intrigante e decisamente ben riuscito. Ricordo che appunto questo era Dan Ways, 14. Questo era anche l'ultimo brano. Vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione, quello che abbiamo ascoltato, e avere anche le indicazioni dei lavori discografici usciti nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.